Se pensi che basti così poco per essere così tanto, sei nella nebbia. Sensazioni miste, sto devasto che mi ha avvolto, mi ha rapito, mi ha sconvolto. Malinconico e struggente è il mio mondo, sì lo so, ma piuttosto che la plastica io lascio e me ne vo. Non ha senso una ragione che ti induce a dirmi che soffri troppo. We'll be right back. Sì, sì. It's allowed for you to bounce. L'elettro show di Gigi D'Agostino dal vivo questa sera, sabato 10 dicembre 2005, ore 21, discoteca Baby Oils, Neudorf 160, località Ilsbeck Fürstenfeld, Austria. Eternamente. Siento que está transportando. Siento tu voz que me está transportando. mi diverto la vita. Affrontare argomenti delicati non vuol dire per forza essere incazzati per qualcosa. Un pessimista è un ottimista ben informato. Aprite le braccia, aprite le porte.